Ehi, hey, trombi trombi. Ciao, ciao trombi trombi. Mi sto sistemando un computer. Sì. Sta andando, sta installando il sistema. Un bel po' ci mette, eh. Non è come... Non so se tu c'hai Windows 7 nel tuo o Windows 8. Comunque io sto mettendo Windows 10 ed è un bel lento installando. Anche questo è un po' lento, Però, ma lo lascio così, non lo tocco, sennò è chi dà ragione. No, ma io lo sto proprio cambiando l'operativo. Prima era Windows 8, adesso sto mettendo il 10. Ah, ecco. A proposito, alle 7 ci sto mandando. E Gio Mari poi ho avuto da fare, non volevo chiamare, ma poi sono a casa in fretta. Devo portare il cane e fare delle commissioni a mamma, poi sono dovuto riscendere qua, capito? Ah già, ma mi facevo un salto di questi giorni, tranquillo. Già passo a prenderla. Ehi, guardo voi, non ci sono problemi. Va bene. Ebbene, a quante mani inteso là? No, negativo. Ah, il letargo è andato. O era il mare oggi, ma non credo, Tu già avuto una bella barriata di gas, Ehi, e ancora ne farà. E ancora ne farà. Ehi, Giovanni, la salvo un po'. Ma io penso che da ottobre cambia. Chi ne sa? Chi ne capisce più di questo tempo com'è? L'acqua che ci voleva adesso invece mi sembra che è lontana l'acqua. Oh, magari a parte di Nuoro, Cagliari, quelle zone che sta facendo sempre. A Sassari è che non ne vuole fare. Boh, evidentemente lì siamo antipatici a Salvadori. No, sai che è papà Sassari non finne, Capito Gio Mari? Tanto l'ha data in mogule, ma ha detto ma che non li fossi. Ha mai detto. E ne può fare, se non ne può fare un'altra, evidentemente. Beh, Sassari proprio. Non ha intenzione, ecco. Se per un tardo si passa. Evidentemente vuole fare caldo qua. Ma è affatto a lungarsi pure, bravo, vedi, piano piano, mese che entra comincia a fare un po' di freschetto. Ero mandare le sue di un bimbi, cazzo. Pare che abbia fatto Eva che ci mangiano. Infatti c'è un po' di umidità, è vero. È vero. Vabbè, Gio Mari, è tempo giugno, dai, perché diciamo che quest'anno l'estate ha iniziato un po' tardi, dai. E sta continuando adesso, magari il prossimo anno adesso inizia da maggio e finì ad agosto, boh, poi inizia a piovere e triche ballacche. Faccia come vuole. Cassa e minoghe, se tende, se ne può fare, se lo faccia, per carità, e dov'eri oggi? In nessun posto? No, niente, a casa c'è Maria, nulla. Ma dimmi una cosa, tu le sai fare le fichi secchi, ma infatti li hai? No, non lo so fare, no, ne ho mai fatto, mai. Ma quest'anno come fichi, in campagna mia, no? No, ce n'è, qualcuna sì, ma... Non ce n'era, no? Anni fa, cazzo, fuori li ho portato tre anni, cazzo. Ma quest'anno, proprio come fichi, poco e niente. Mi li ha fatti fare di Maria, sono buoni, dolci. Non so se uno, capirò, me lo mangio. Se li fa e se li prende. Vabbè, certo che se li fa, chiaro che... Oh, la servo sempre in casa, però se ne ha troppo si può vendere. E già sono buoni, ecco. A me piacciono parecchio. E li mangio col pane io, perché sì, per cui no... Mamma li faceva. Ma altri tempi però, No, adesso, magari ci sono quelli che li fanno, magari forse perché ne hanno parecchio di picchi, e allora se non lasciarlo perdere allora fanno questi picchi sicchi, cazzo. E in inverno sono buonissimi, Ah Giovanni, il mangiato uno adesso è uno spettacolo, boh, dolce. No, lui già ne ha, picchi in campagna, anche buoni, dolci. Allora, cioè i bianchi e i neri, i neri erano ma sai che erano i dossi, erano troppo dossi, più dolci era il miele qua, credi, buoni, so che io, però tanto quando ne mangio due volte mi viene mal di pancia. Infatti questi fichi secchi ne mangio solo uno e boh, questo è uno spettacolo, è buonissimo, dolci dolci. Sì, perché c'hanno molto zucchero, capito? Quando si seccano li mettono a loro, si mettono a loro in una busta di carta oppure un sacchetto, e quando li mangi hanno il sapore anche dell'alloro, capito? Sono buonissimi, sono buonissimi, la soggia. Un tempo mamma li faceva, ma sì che ne avevamo da buttare, per cui li faceva per tutto l'anno. Poi avevo una zia che li faceva apposta, allora magari, ma io parlo di 40-50 anni fa, lì verso la Nurla, verso Platamona, ivi, il vizio della morte, quelli erano tutte fosse di picchi. Allora questa mia zia andava lì e tutti gli anni comprava insomma i picchi. E li facevano, dopo si riprendevano, ma a sacchi di quintale li facevano, però tutti pagavano, però li facevano che si riprendevano questa via, capito? Sì, anche il padre di Maria ne ha fatto un po', tipo, fai 4-5 kg, allora ci hanno dato un po', così mezzo chilo, un chilo, non so, cioè. Niente. No, veramente qua sono una squisitezza. Mi sa che un altro me lo mangio, là. Sto rischiando anche. Perché il problema che ho non dovrei mangiarne. Perché ogni tanto mi fanno mal di pancia. Ma non credo che faccia mal di pancia. C'hanno molto zucchero, E la glicemia è veleno, Niente. Però io le mangio uno, due, anche tre li mangio, per cui non devo abusare, perché sono molto zuccherati, per cui, e quando le mangio col pane, capito? In modo che riesca a confondere un po' il dolciume che c'ha, il dolce che c'hanno, capito? Però piacciono, perlomeno a me mi piace parecchio. Infatti ogni tanto noi li vediamo anche sui negozi, no? Quella bianca con ognuna, certe volte li prendiamo un pacchetto e poi ce le mangiamo una a una. Vabbè Giovanni, tu mangi dolce, aspetta, e in più i carboidrati, il pane lo sai, no? Io lo mangio, infatti anche la frutta la mangio tutto col pane, capito? E chi sei che lo stesso? Certo, mangiare anche le arance, tutto mangio. Salvo che l'agure hanno la maglia col pane, ma il melone, per dire, il melone, le pesche, quelle le mangio tutto col pane, e più forte di me non riesco a mangiare senza il pane, o che qualcuno la mangia ugualmente, certo. Se non c'ho pane è chiaro che la mangio, però se c'è il pane la mangio tutta con la frutta col pane. Ma ti faccio l'esempio, mio fratello mangia la pasta asciutta con il pane e anche la, come si chiama, la fainé. La pasta asciutta ce ne so parecchi, ma no, io no, la pasta asciutta non la mangio col pane, però ce ne sono, infatti, perché si bagnano il pane col sugo, capito? E in mezzo alla pasta mangiano anche il pane, capito? Ce ne sono. No, io la pasta la mangio senza pane, che ci mancherebbe altro. Però la frutta, per forza devo mangiare il pane, non ci riesco a non mangiare il pane, capito? Qualcuno lo mangio senza pane, ma perché magari non c'ho il pane, se no magari non la mangio, Lo so, ma Giovanni, perché diabetico, pane dolce, insomma, c'hai due veleni praticamente. Lo so, io con il pane posso mangiare un pezzo di carne, un po' di salata, ma no, voglio mangiare pasta asciutta con un bagno. Hai fattolo, perché mio fratello sì. Ripeto, ci sono quelle persone che mangiano la pasta asciutta col pane, purtroppo io no, capito? Non l'ho mai mangiato col pane, se a bagnarmi sì, il pane con sugo sì, ma con la pasta, a mangiare il pane con la pasta asciutta no, oh assolutamente. E vabbè, non tutti siamo uguali, purtroppo è così. Infatti, vabbè, carboidrati sono comunque gli umori, già la pasta, in più il pane. Vabbè, io per me, grazie a Dio, non sono diabetico e diciamo che ne approfitto, dai. Noi ci mangiamo un piatto di pasta giusto, ne faccio, ne abbondo molto molto di più. Poi mi abbuffo troppo, quando vado a curicap a riposarmi il pomeriggio, mi sento un bel pesante dopo, perché inizio a mangiare la pasta, poi il secondo, insalata, frutta. Poi ti bevi una birretta, per dire, no? O bevi acqua, quello che è. Tipo oggi birra non ne ho bevuto solo acqua. Ho bevuta ieri, ma oggi non ne bevo, va, non a giugana. E poi scoppi. Io, ripeto, per quel problema che ho devo stare molto attento. Io, ripeto, sono diabetico, però non è che ne devo abusare, non abuso, capito? Per cui, grazie a Dio, sono sempre regolare. Capito, ma non bisogna abusarne, capito? Oh, poi la diabete mia non è che sia di quelle forti, capito? È leggera di vecchiaia, capito? È la mia di vecchiaia, per cui in casa non c'era nessuno diabetico, nessuno. Purtroppo io sono, ci ho cascato perché ne ho abusato troppo. In campagna io, anni fa, capita, prima di essere diabetico, tutto il pane mangiavo, la frutta e poi non ne parliamo di l'uva, capitava sempre rubalini in busciacca e quando parava addosso, in mezzo alla campagna c'era sempre la frutta e mangiava sempre la frutta con il mare, puoi immaginare, io sono diventato diabetico, però adesso tutto, però senza abusarne, capito? Io mangio tutto mangio io, dalla lavazzetta, per cui c'è una cosa, ma mi piace magari, quello è un altro discorso, quello non lo mangio, però io mangio tutto, non ne abuso, è tanto giusto, per cui cioè, sono sempre regolare, capito? E così dovrebbe fare anche quelli che magari che hanno la diabete magari forse, capito? Per cui sono pericolosi quelli lì. Lo so, io vedi l'uva la mangio con il pane, però quella dolce dolce, Giomari, tipo uva Italia o quella roba lì, oppure quell'uva che abbiamo noi, quella per fare quel vino dolce, quella lì, chissà sì, se no no. Non ne mangio molto perché anche quella con la buccia, queste cose, non è che ne posso approfittare. E in più mangio l'uva passa, non so se ti piace a te Giovanni. Adesso me l'ha ricordato. Io tutte le volte che vado a LD o a capo, mi hai preso sempre due o tre di quelle. Fate con l'uva passa, capito? Ah, mi sembra che ne ho due in freezer, perché l'altro giorno ne ho mangiato due e altri due l'ho messo in freezer. Ah, poi se me l'hai detto, adesso ne lo tocco, stavolta me ne mangio uno. Ecco, perché mi piace molto l'uva passa col pane. È buona, sì, se anche noi ce l'abbiamo, la bustina la prendiamo ogni tanto, qui abbiamo i ficchi, e ogni tanto, dai, senza abusarne troppo, perlomeno Marina se è già se la mangia oppure io ne mangio una al giorno. A una così A una o un chilo? No, ma dai, vabbè, comunque già sono cose sane, poi le ha fatte il padre, almeno lo sai quello che mangi, poi quelle che vendono si sa, Gio Mario ora ci mettono in mezzo. Marina ne mangia una solo, vabbè anche due no, però se a lei piace mangiarne una va bene ugualmente, capito? E tante volte così anche assaggia, ma tu non ci credi, noi la frutta ce l'abbiamo, no? E c'ho un carrello a piani dei cecini e la frutta ce l'abbiamo tutti lì sul terrazzino. Ogni tanto ho un grappolo di uva, ho una banana, ho una pesca. Per dire, e c'ho queste piccoli tendi io, no? Che appare così, ma c'ho, dopo magari arrivo all'ora di mangiare e mangio poco e niente, perché mangio poco, io non è che prima sì, ma adesso mangio poco, per cui però qua, no, c'ho queste piccoli tendi, no? Non hai idea, tu, senti i piccoli tendi c'ho qui. E anche i nocchi, Gio Mario, i nocchi non mancano tutta, dall'umidoni alle banane, pesche, frutta secca. No, non con qua, già nel compo, e molte volte ce la butta anche, che si guasta. Adesso tra un po' iniziamo con gli aranci, mi chiamari, buon arrivo. Beh, ripeto, noi mangiamo tutto, capito? Mangiamo tutto noi, perché non bisogna problemi, ecco, per cui, grazie a Dio, non ci manca niente. Agere tutti i poveri come se noi. Bisogna controllarsi allo stesso tempo, capito? Però uno quando ha fame mangia, oggi mia figlia ci ha portato a mangiare fuori e siamo andati lì a Coso, a Snack, ancora vicino alla città mercato, come cavolo si chiama, che non mi ricordo mai il nome. Siamo andati lì a mangiare, faccio mangiare il piatto di riso alla pescatora, certo, il piatto di riso, dopo patate fritte con calamari, certo, e l'insalata, certo, il caffè, certo, la massa caffè, e uia. Ah, il Blackstone, Gio Mari. Per dirti, no, certo. Ah, vai, saluti, salti l'omaggio, sto qua con i copienti. Ma al Blackstone andate a mangiare? Quasi cambia chi sono, quello che c'è sul mercato. Sì, una volta siamo andati pure noi, una, due volte, boom, non mi ricordo. Adesso vediamo, un venerdì organizziamo e facciamo un salto a mangiare qualcosina lì, dai. Come si dice, già si mangia bene. Io mi prendo la pizza, perché tanto è fatta a forno a legna ed è molto buona. Un giorno l'ho presa, era un po' bruciacchiata sotto, me ne sono accorto dopo che me ne ho mangiato la metà, ormai era già mangiata comunque. La prossima volta me la controllo bene, che se bruciata ve la torno. Chi vuole una, non vuole, su Cubagendi vuole una cosa, come ti si tocca, non una cosa bruciata. Non la mangio la pizza, Sì, qualche volta la mangio, magari qualche volta qua, tramite mia nuora e miei nipoti, entrano e ci dicono, allora pigliamo la pizza familiare, no? Certe volte la pigliamo, però la mangio perché magari siamo qui per dire che io non la mangio, ma allora qualche fetta la mangio, ma se no io no, mia moglie fa pasta per la pizza. Mi piace la pizza quando andiamo a Bandiera Gialla, perché di solito andiamo pure a Bandiera Gialla qualche volta, oppure a Corso Santa Maria, oppure andiamo da Daniele, però la pizza è fa Daniele lì vicino a Bricca, ma non ci piace, no. Gli altri pasti sì, io pizza non ne mangio, per cui preferisco altro piatto composto. E mia moglie però se va vuole la pizza. Però se va a pizza non la mangia perché non gli piace, mentre che a cosa la Bandiera Gialla la mangia anche sugli altri posti, ti puoi immaginare. Se l'avevo mangiata lì la pizza allo Spedit lì vicino a Bricomer, era buona. Anche lì a Blackstone, però era un po' più bruciacchiata sotto. E vabbè, sai cosa dico, Mario, ci va troppa gente, le richieste sono tante, devi diciamo aspettare, quando è pieno quel posto, mamma mia, indugni, come guadagnare il fine settimana, tipo venerdì, sabato, anche domenica, si organizzano e se ne vanno lì a mangiare. Sì, diciamo che già è un bel posto quello, dai, poi anche spazioso, fanno karaoke. O degli amici che sono andati a fare karaoke lì. E sì, di tutto bacian bam. Io ultimamente sto andando su vicino a casa, al monte, Gio Mari, da Nannis. Ma mi siedo lì, bevo, mangio con 10, 13. Ma ogni tanto parliamo anche noi, capito? Però magari perché ci portano i miei figli, capito? Noi, di solito, per andare a mangiare fuori bisogna che noi magari stiamo andando, siamo magari dentro satire facendo o qualche analisi o da qualche medico, certe volte come capo, o qualche vista, e magari riusciamo troppo tardi, allora magari andiamo magari o Daniele lì a Bricome, oppure a Bandiera Gialla, oppure dove siamo andati oggi, anche a Cortese, dappertutto, anche a Platamona da Daniele siamo usciti, siamo usciti anche dal Pescatore. Ripeto, noi giriamo e non è che siamo sempre in casa, però ci portano loro, i miei figli, capito? Stato un po' in compagnia, magari ho fatto una chiacchierata. È meglio uscire, Gio Mari, bisogna farlo che c'hai l'età che hai, ma parlo in generale, attenzione. Quindi per esempio mamma, se per uscire la dobbiamo portare. Solo che poi si stufa subito, è un casino, ma lei voglio andare a casa, inizia, capito? Che lei si sente, magari non è comoda dove sta seduta, così lì al suo letto, senza nel suo letto, tranquilla e serena, e così si sdraia e chi la tocca? E vabbè, purtroppo gli anni passano, sei anche ammalata. Da soli magari no, da soli non usciamo noi. Sì, qualche volta capita, magari dentro Sassel, ma fuori da soli non andiamo, no. Insomma, ci portano sempre i nostri figli, capito? Ogni tanto vai, io a vincere con lui, io andiamo a mangiare fuori e andiamo. Ma se no, proprio andare fuori, no, soli non ci andiamo, capito? Però se siamo dentro Sassari, andiamo soli, sia a Bandiera Gialla oppure anche da Daniele lì vicino a Bricome, anche da lì, oppure a Bandiera Gialla, anche a Corte Santa Maria, non perché lo abbiamo mangiato lì via Spruni, certo. Però adesso è di meno, dai, adesso giriamo anche di meno perché l'età purtroppo è così, non è più voglia, ecco. Non abbiamo più voglia, poi anche mia moglie non può camminare, cioè, si può immaginare come ci fai. Se non la buccia non anda, non fa andare, niente. Però se la buccia mi figuri già anda. Così è mamma Giovanni, cammina, il giorno 8 c'è il prelievi per fare la prelievi del sangue, poi per fare le urine, per fare il controllo, infatti devo darti una regolata. Tanto sicuramente quando guarda il librettino il minimo gli dà di nuovo l'insulina. Mamma mia, guarda, su di me, Gio Mari. Me ne sto temendo, credimi. Adesso vediamo, cosa ne esce. Perché gli ho detto di essere una regolata. Di mangiare sì, ma di non abusare. Perché ultimamente è troppo alta la glicemia. Speriamo bene, dai. Poi il giorno, l'8, il 18 c'ha proprio la visita. Ma qualche volta non la porti fuori, no? O da sola esce, ma già cammina bene pure o no? Già cammina bene, mamma è grossa, Gio Mari, è molto grossa mamma. Vabbè, e più si va e peggio è, capito? Purtroppo siamo tutti così, a una certa età, quando la benzina io, pensate mai in casa io, e ti giro io. Sempre in giro, per cui già girato, ho girato abbastanza, per cui andavamo anche in gita fuori, anche all'estero, e abbiamo girato tanto, però va un viaggio, noi siamo tutti malandati, per cui lo andiamo via lungo, solo i sassi, poi sai, basta, e lo devo fare lui. Purtroppo a una certa età bisogna essere anche, non ti viene voglia perché magari non lo sai bene, non puoi camminare e non va bene, capito? Sì, che qualche volta usciamoci, però uno sforzo si può fare perché bisogna anche uscire, capito? Poi non sta sempre in casa lampato e io mi si va la giostra, se c'è voce no. Già l'hai visto dietro, e faccio un giretto lì e faccio già anche delle ore soli, oppure mi si fa a magazzino e so che c'è pulendi, anche però mi si fa la campagna, pure 3 ore e poi si dice vado a dominare, sa che se magari roba pesante non posso fare, magari però roba leggera la faccio, si ha mai visto che qualcosa la faccio, capito? Ma ripeto Giovanni, se hai la possibilità di uscire, vedi, i tuoi figli ti portano, purtroppo altri sono fuori, sono chi è a socio, chi tu, vabbè, chi tu già sai, macchina non ha, c'è al momento solo per lavoro, e l'altro è a sorso, e tempo non è che ne hanno, anche loro hanno roba da fare, capito? E mica arrigali. Ogni tanto vengono a trovarla, ma ogni tanto uno se ne trova. Io la porterei anche, però si stanca subito, ma la porto in un posto, allora mi voglio andare a casa, perché non si stufa, non sta a suo agio e se ne vuole andare a casa. Così a casa ha tutte le comodità che vuole, o si vuole vedere oppure si vuole sdraiare. Fa quello che vuoi, Gio Mario, ormai mia madre non gliene frega più niente. Sì, io dico di tanto di farsi due passeggiate, perché vicino a casa c'è un negozietto, se li fa, però è pericoloso perché l'altra volta è caduta. Beh, certo che, allora bisogna stare attenti. Vabbè, anche noi per dire, ogni tanto, cioè, lunedì saliamo a Piazza Listini sempre, la maggior parte, capito? Adesso siamo già 2 o 3 lunedì che non ci saliamo, però magari non ci siamo saliti per motivi di impatto in fine, capito? Se non saliamo a Piazza Listini lunedì, andiamo magari il martedì magari e ci facciamo un giro, per fare la spesa, certe volte facciamo prima cosa a LD, dopo a Campo, dopo a Lidl, dopo andiamo a Europi e le facciamo giri, insomma esci per prendere una cosa e ne porti un bagagliaio pieno, a noi fare così, siamo in due e poi certe volte c'è una cosa che ti serve, appigliamo e ci lasciamo in casa, capito? Beh Gio Mario, a me non vi fate, vabbè tu già guidi ancora, sì. A guido? Dico la macchina, la stai sempre guidando, sì. Ancora sì, capita, macchina, ho detto comunque, no, guido abbastanza bene ancora, grazie a Dio, la vista ce l'ho, la protesta ce l'ho perfetta, però l'anno scorso me l'ho rinnovata, però me l'hanno rinnovata per altri 2 anni, nel 2021, e dopo vedo un po' a 2021, quando mi scappa prima di scadere, vedo un po'. Se me la rinnova per qualche altro anno, capito? Se non pazienza, come si fa? E 82 vedi già lui, non sono più fino, 82 vedi già. Lo so, Giovanni. No, vabbè, pensavo che come si dice? Che avevi smesso di guidare, dai. Per quella caduta che ha avuto, capito? Vabbè, meglio così, ma non vi spostate anche, vi fate un giro. Ma da Sassari non esci però, vero, no? Come? Ho detto, da Sassari non esci con la macchina, tipo Porto Torre, Splatamona, così. Ma io guido dappertutto, vado. Dappertutto, anche nei paesi, certe volte, per dire, l'altro giorno andavamo lì a Banari, vicino a Silico, a Itiri, tutti, poi io vado a tutti i posti, grazie a Dio, non guido bene ancora, capito? Non mi posso lamentare, quando mi sento di non poter guidare non ne pigo più macchina, sta tranquillo, infatti, però grazie a Dio ancora mi sento di guidare, per cui no, vado per tutto, ma che cazzo hanno io a Trento Sassari, e se saliamo anche a Piazza del Centro andiamo in macchina, no, per le vie che ci vanno in tranno, che ne saranno. Grazie a Dio ancora già guido bene, dai. Ah va bene, intendevo dire, se andavate così fuori, dai. Sì, è meglio così, dai, meglio Gio Mario. A me scade nel 2029 la patente, l'ho rinnovata quest'anno. Sai che si maga tu buru. Sì, tu sei giovane ancora, per cui sei tranquillo. A me la macchina mi serve, perché altro anche per scendere in campagna, capito? E cazzo, se no come faccio? Mica posso scendere a piedi, no? È un po' lontanino San Camillo, magari la centrata lì, però devo scendere a piedi, già lo sai dov'è la campagna, però no. non ci fa filtrarlo, o sarà legato, non faccio una macchina, vuol dire che la palaggia a pidacchio è molto, e non ci cavalaggia a dare molto, e non c'è chi di chialuppo. Certo, e vabbè Giovanni, cosa pensa un giovane, con i tempi che corrono, voi, molta gente giovane sta morendo, tipo quella bambina di 9 anni, e non so cosa ha avuto, dice che il medico aveva un po' di ansia, e invece questa bambina di 9 anni è morta di infarto, e il medico ha detto che era solo un po' di ansia, cioè lì all'ospedale. Purtroppo la vita è un giro, siamo nel passaggio, a quelle cose non ci penso nemmeno io, intanto ci si pensa, allora è peggio ancora, per cui tanto arriva, ce l'andiamo, così, poi dici no vanno, no, però già c'è tempo ancora. Va bene, Luzani, mi sta chiamando mia moglie, per cui ne approfitto, eventualmente, non so, forse verso le 7:30 accendo di nuovo. Ci sentiamo lui. Saluto in casa, ci sentiamo. Grazie la chiacchierata. A dopo se coincide, se no a domani. Ciao Lugo, grazie. Sì, ciao Giovanni, tra un po' me ne vado a casa anch'io, dai. Buonasera e buon tutto. Alla prossima, ciao.